City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Più dell'80% della superficie pubblica nelle città è riservato alle auto, alle corsie stradali, ai parcheggi. Il restante 20% è destinato agli esseri umani, ma ci sono città dove le cose vanno molto peggio e non si arriva al 10%. Se tutto questo garantisse una circolazione e una mobilità efficienti, ci si potrebbe anche rassegnare, ma così non è. La mobilità è in crisi come non mai. Basta ricordare che nelle ore di punta la velocità media di spostamento in città a bordo di un'auto sta tra 15 e i 18 km orari, senza bisogno di ingorghi particolari. Ebbene, una soluzione apparentemente paradossale a questo problema consiste nella eliminazione della tipica suddivisione della strada in corsie per auto, corsie per bici, sempre che ci siano, e corsie, ovvero marciapiedi per i pedoni, che vengono sostituiti da uno spazio unico, comune, dove tutte queste forme di mobilità convivono, un cosiddetto shared space. Ne parliamo con uno dei pochissimi esperti dell'argomento in Italia, l'architetto Matteo Dondè, che insomma sta anche provando a realizzarli. Buonasera Dondè. Buonasera agli ascoltatori. Allora, forse dobbiamo partire, non so se serve una definizione di shared space un po' più precisa di quella che ho detto io, togliamo tutte le separazioni insomma. No, corretto, provo a renderla comprensibile un po' a tutti. Dobbiamo un po' abbandonare il linguaggio dell'automobile, per cui ragionare su un corridoio stradale, il corridoio per i pedoni, il corridoio per la sosta, il corridoio per ogni utente, e condividere la strada abbassando le velocità. In questa maniera, soprattutto nelle nostre città italiane, dove gli spazi sono limitati perché sono città storiche, si è verificato che riducendo la velocità posso ridurre lo spazio da dedicare all'automobile e dedicarne di più agli altri usi, che sono quelli del pedone, del ciclista, dell'utilizzatore del trasporto. Allora, intanto parliamo di una riduzione dei limiti di velocità, perché in realtà abbiamo già detto che si va a 15 all'ora, quindi in realtà non è che si rallenta sul serio. Però portare, abbassare questi limiti permette di convivere a queste forme di mobilità, no? Perché cominciano ad andare tutte a velocità abbastanza simili, questo è un po' il punto. Esattamente, la velocità media è di 18 km orari, ma sappiamo benissimo che poi appena c'è un po' di spazio si riaccelera per poi frenare al semaforo successivo. L'idea invece è che andando con limiti 30 all'ora aumenta molto la sicurezza dell'automobilista, del pedone, di chiunque sta in mezzo alla strada. E non aumentano veramente i tempi di percorrenza? Assolutamente no, specie nelle ore di punta, quando gli stop and go, le continue frenate sono quelle che fanno effettivamente il tempo medio, per cui ridurre la velocità ma renderla più fluida spesso ha maggiori vantaggi che lasciare. Addirittura può ridurre i tempi di percorrenza, soprattutto se poi ci sono un po' di auto in meno e un po' di persone che in più che vanno a piedi o in bicicletta. Ecco, ci sono veri shared space in Italia? Progettati recentemente no, c'è ancora molta paura a intervenire in questo senso, perché in Italia si è lavorato poco sulla sicurezza stradale e quindi l'idea di condividere la strada fa paura sia agli utenti che agli amministratori. Perché si ha paura, l'assessore di turno ha paura che dichiara shared space una certa roba e poi ci scappi il morto, perché poi la gente corre lo stesso e quindi nessuno fa niente, è un po' questo il problema. Esattamente, per questo l'ideale sarebbe prima passare dalle zone 30 per poi arrivare a uno spazio condiviso. Ecco, e anche qui capita che chi fa queste sperimentazioni poi perde le lezioni al giro successivo. E allora tu sei un esperto di sperimentazioni di zone 30, sono delle operazioni costruite dal basso dove poi questo rischio, diciamo, di perdere le lezioni al giro successivo è molto ridotto. Certamente, le ho importate da esperienze estere, perché queste sperimentazioni si stanno facendo veramente dappertutto. L'idea è proprio prendere una strada, trasformarla per due o tre giorni insieme ai cittadini. Cosa significa? Significa arrivare in zona e il giorno prima fare un convegno raccontando un po' a tutti i residenti perché si chiede di andare più piano, perché una strada dove si va più piano è più bella. E il giorno dopo, insieme ai cittadini, si va a ridisegnare fisicamente gli stalli di sosta, ad esempio alternandoli da un lato all'altro della strada per creare delle vere e proprie gincane che impediscono velocità più elevate. Ma questo ci permette anche di ricavare nuovi spazi, dove mettere del verde, dove mettere delle nuove sedute, dove creare dei nuovi spazi di vita. Quindi riprogettate insieme a questi, agli abitanti di quella strada, magari una via lunga 200 metri, non è che debba essere chissà che cosa, e ci racconti quali sono le reazioni abitualmente. Tendenzialmente dove le ho fatte, da Terni a Modena, a Casalmaggiore, a Pomezia, il risultato immediato è stato quello di una raccolta di firme per far diventare definitivo l'intervento, e questo io ritengo sia un enorme successo, proprio perché i cittadini, toccando con mano, capiscono fisicamente quali sono i vantaggi. Qualche esempio: la signora che mi dice la mattina dopo: ho dormito con le finestre aperte stanotte, non mi succedeva da tempo perché nessuno più passava 80 all'ora come passava prima facendo rumore. Oppure la signora anziana che mi ringrazia perché mi dice: mangio un gelato seduta sotto casa per la prima volta nella mia vita, e questa signora aveva 85 anni, era felice come una Pasqua. Ci dobbiamo fermare qui, ma riprendiamo a parlare di questo stesso argomento lunedì. Per intanto grazie Matteo Dondè. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.